Il punto di Stefano Folli. Qualcosa di dirompente sta avvenendo nel nostro sistema politico. I vari sondaggi, uniti alle semplici cronache quotidiane, dimostrano che il numero di indecisi oggi è altissimo. E anche il voto antisistema, il voto a grillo, si sta espandendo. I 5 Stelle potrebbero conquistare addirittura il secondo posto dopo la coalizione Bersani-Vendola. Quanto alla destra, la vecchia area berlusconiana, al momento c'è il vuoto, con il crollo del PDL che non si ferma e la crisi della Lega. Ma il nostro assetto democratico non è fatto per avere un buco nero a destra. L'area moderata è stata sempre maggioritaria nel paese. Se oggi si crea questo squilibrio, magari a vantaggio dei 5 Stelle, allora le conseguenze saranno significative per il governo del paese. Non sappiamo se buone o cattive, ma certo saranno destinate a trasformare l'Italia e forse anche a creare una forte carica di instabilità. A meno che Renzi non vinca le primarie del Partito Democratico, allora lo scenario cambierebbe ancora, ma per ora è solo un'ipotesi.